Giuseppe, come stai? E riservati, leggete la radio. A riservarti, che c'è freddo, portare lì alla radio. E anche quello è vero, però sdraiato forse stai meglio. Infatti. Va bene. Non hai sentito nessuno da Sassari? Va bene. Sono tutti abituati a entrare alle 8 di sera, quando si cena, oramai. A quest'ora non entra più nessuno. Va bene, Giuseppe, dai, allora sistemami il cagnone. Al limite ci sentiamo dopo, ok? Vedi, anch'io sono come te, pensionato adesso. Ci sentiamo dopo, Giuseppe, dai, che così mi sistemo il cane, sono già le 6. Ciao, a dopo, Giuseppe.